Mezzogiorno. Le notizie in 60 minuti. Di Simone Spezia. L'abbattimento del jet russo per Mosca è una provocazione premeditata. I turchi chiedono di evitare l'escalation. Ankara rischia sui progetti comuni, dal gasdotto alla centrale nucleare. Intanto la Russia blocca le forniture di gas all'Ucraina, nessun pagamento dall'Europa, nessuna preoccupazione per i flussi. Domenica a Bruxelles è stata sventata un'ondata di attentati, dicono le autorità belghe. Si cercano 10 persone, sarebbero pesantemente armate e avrebbero esplosivi. Scende il fatturato dell'industria in settembre dello 0,1% e giù anche gli ordini del 2%, ancora bene il settore auto. Sembrerebbe legittima difesa, così il PM che indaga sull'orafo che ieri nel milanese ha ucciso un rapinatore. Il malvivente era un ergastolano evaso 2 volte. Una buona giornata da Simone Spezia, bentornati a Effetto Giorno, le notizie in 60 minuti, il punto a metà giornata di Radio 24 su quello che succede in Italia e nel mondo. I nostri contatti, effettogiorno@radio24.it per scriverci, e c'è anche WhatsApp al 349-238-6666. In apertura dunque torniamo a parlare della tensione internazionale che circonda la decisione, perché tale pare essere, di Ankara di abbattere un jet russo che aveva sconfinato in territorio turco per 17 secondi. Gli aggiornamenti con la nostra Laura Bettini. Laura, buongiorno. Buongiorno Simone, buongiorno a tutti gli ascoltatori. Ancora in corso questo incontro con la stampa del ministro degli esteri russo Sergei Lavrov, l'abbiamo seguito fino a pochi istanti fa. Dice Lavrov: abbiamo grossi dubbi che sia stato un atto non preparato, dice, è stata una provocazione. Perché? Non è facile dirlo, non voglio fare speculazioni, dice il ministro. I turchi hanno dato la loro versione in una lettera all'ONU, noi risponderemo pubblicamente con i documenti. In quell'area, dice ancora Lavrov, non ci sono solo turcomanni, come aveva affermato poco prima il presidente Erdogan, ma ci sono anche militanti dell'ISIS che usano il territorio turco per formarsi. Questo è quello che ha detto poco fa il ministro degli esteri. La tensione, come dicevamo, è andata avanti per tutta la giornata di ieri, ma anche per la mattinata di oggi. Aveva parlato il presidente turco Erdogan dicendo appunto: non vogliamo un'escalation militare, ma lì i russi sono andati a colpire un'area turca di turcomanni, senza quindi terroristi, versione smentita appunto poco fa da Lavrov. In precedenza aveva parlato il premier russo Medvedev e aveva annunciato quelle che erano le conseguenze che aveva a sua volta annunciato ieri il presidente Putin. Tra queste ci sono la rinuncia a una serie di importanti progetti comuni, dalla costruzione della prima centrale nucleare turca appena avviata alla realizzazione del gasdotto Turkish Stream. Anche le aziende turche in Russia, ha detto Lavrov, potrebbero dover rinunciare a qualcosa, e sono tante queste aziende perché sono aumentate dopo le sanzioni europee a Mosca. La Turchia ha dimostrato di proteggere i militanti dell'ISIS, non ci ha sorpreso, parole ancora di Medvedev, già sapevamo degli interessi finanziari di certi dirigenti turchi nella fornitura di prodotti petroliferi realizzati dagli impianti dell'ISIS, quindi una non molto velata denuncia. D'ora in poi, aveva ancora detto il Ministero della Difesa russo, l'incrociatore Moskva resterà nella base di Latakia, pronto a distruggere qualsiasi bersaglio rappresenti una potenziale minaccia per i nostri aerei. Questa quindi anche la ritorsione militare. Altre parole di Lavrov appena pronunciate: non faremo la guerra alla Turchia, le nostre relazioni con il popolo turco non sono cambiate, quindi si conferma che la ritorsione non sarà militare. In compenso Mosca rivedrà seriamente le relazioni russo-turche, appunto riaffermando quello che aveva detto questa mattina il premier Medvedev. A te Simone. E grazie alla nostra Laura Bettini per questi aggiornamenti. Si è parlato appunto di ritorsioni economiche, le grandi partite, e come sentivate anche dal racconto della nostra Laura Bettini, sono proprio quelle energetiche, dunque facciamo il punto proprio su queste. Tra Oriente e Occidente, tra Islam e Cristianità, la Turchia è anche un'importante crocevia per gli scambi di petrolio e presto per quelli di gas. È anche per questo che il prezzo del greggio, finora insensibile al terrorismo e all'escalation militare in Medio Oriente, ha reagito con un balzo del 3% all'abbattimento del caccia russo da parte di Ankara. Ogni giorno, passando per la Turchia, arrivano sui mercati occidentali e soprattutto in Europa circa 4 milioni di barili di greggio e prodotti raffinati. 3 milioni di barili, per un terzo estratti proprio in Russia, arrivano a bordo di petroliere attraverso il Bosforo e i Dardanelli. Altre centinaia di migliaia di barili dal Caspio, dall'Iraq, sempre di più anche dal Kurdistan iracheno, viaggiano via oleodotto fino al porto turco di Ceyhan sul Mediterraneo. Dal 2020 dalla Turchia dovrebbe arrivarci anche gas. La sua posizione geografica la rende un imprescindibile tassello nel progetto del Corridoio Sud, il sistema europeo di gasdotti di cui fa parte anche TAP, che collegherà l'Azerbaigian all'Italia aprendo una nuova rotta per forniture alternative a quelle russe. La Russia stessa ha corteggiato a lungo Ankara per ottenere il passaggio del Turkish Stream, l'erede di South Stream, gasdotto con cui Mosca puntava a bypassare l'Ucraina. Ufficialmente Gazprom non ha ancora abbandonato, ma solo rinviato il progetto. La Turchia, impegnata in un braccio di ferro per ottenere sconti sul gas russo, finora non concedeva autorizzazioni. A questo punto potrebbero non arrivare mai. Visti dell'Uomo, Radio 24, e Sole 24 Ore. E siamo ancora con la nostra Laura Bettini, perché finora abbiamo visto il fronte diplomatico da una parte e appunto il fronte economico dall'altra. C'è anche un fronte più strettamente di cronaca, Laura, no? Sì, per la cronaca ovviamente in questo momento è gara dall'una e dall'altra parte a mostrare immagini e tracciati di volo di questo aereo russo che avrebbe volato in spazio aereo turco. I russi contestano però comunque questa versione. Avrebbe volato in spazio aereo turco per 17 secondi e per un totale quindi di pochissimi chilometri, 3-4 chilometri, prima di essere attaccato e colpito. Mosca contesta non solo lo sforamento, ma anche l'affermazione che i piloti sarebbero stati più volte avvisati di cambiare rotta. L'unica buona notizia in tutto questo riguarda il secondo militare russo che si trovava a bordo del Sukhoi 24. È stato salvato dai soldati di Assad, a quanto pare. Avrà una medaglia, ha subito detto il presidente Putin. E grazie a Laura Bettini dunque per questo ampio aggiornamento. Tutto si collega, almeno parzialmente, si collega sicuramente alla lotta all'ISIS, ma più in generale alla lotta al terrorismo. Ebbene, in Europa proseguono le ricerche degli attentatori di Parigi. L'attenzione si concentra anche questa mattina sul Belgio. Anna Marino, buongiorno. Buongiorno a te Simone, buongiorno agli ascoltatori. La lotta all'ISIS, come dicevi, in Europa continua, anche se si tenta un ritorno alla normalità. Innanzitutto, dopo 4 giorni di blocco a Bruxelles, riaprono scuole e gran parte della metropolitana. L'allerta però rimane ovviamente massima nel paese, come testimoniano anche i soldati armati che continuano a pattugliare le strade della capitale. Secondo la stampa belga però, in base appunto a fonti governative, i raid lanciati dalla polizia e dall'esercito tra la notte di domenica e le prime luci dell'alba di lunedì in Belgio, con 29 perquisizioni tra Bruxelles, Charleroi e Liegi, hanno permesso di sventare una serie di attentati multipli nella capitale. Ma comunque la capitale resta pronta a tutto. Bruxelles pensa anche a delle safe room, stanze bunker negli istituti scolastici, dove far rifugiare gli insegnanti e gli studenti in caso di attacco. Dicevamo, sul fronte delle indagini, il Ministero degli Esteri belga ha detto che le autorità del paese sono alla ricerca di 10 individui che sarebbero pesantemente armati e in possesso di esplosivi, e secondo il capo della diplomazia belga i sospettati avrebbero intenzione di compiere un'operazione simile a quella di Parigi. Intanto le autorità belghe hanno incriminato un quinto sospetto in relazione agli attacchi terroristici di Parigi, e non si fermano le ricerche che si sono spostate in Westfalia di Salah Abdeslam, l'incriminato numero uno per Parigi. In Francia intanto il livello di sorveglianza resta massimo, soprattutto alla vigilia della conferenza sul clima, la COP21 in programma a Parigi dal 30 novembre all'11 dicembre. Misure straordinarie: verranno dispiegati quasi 11.000 agenti di polizia per garantire la sicurezza, come ha annunciato oggi il ministro dell'interno francese Bernard Cazeneuve, precisando che circa 8.000 poliziotti e gendarmi saranno dispiegati alle frontiere, mentre altri 2.800 saranno di stanza intorno al sito della conferenza Bourget nei pressi di Parigi. E per ora è tutto. Grazie anche ad Anna Marino per questi aggiornamenti. A proposito di terrorismo, sale a 13 morti e 20 feriti, di cui 4 civili, il bilancio dell'attentato di ieri a Tunisi. Lo ha detto il ministro della salute tunisino Said Adi. Una fonte della sicurezza ha indicato che la polizia ha identificato finora 12 vittime, guardie presidenziali, e finora l'attentato non è stato rivendicato. Il presidente della Repubblica Bejikaid Sebsi ha annunciato la proclamazione dello stato di emergenza per 30 giorni, coprifuoco a partire da ieri sera dalle 21 alle 5 del mattino. Le misure di sicurezza negli aeroporti e nei porti tunisini sono state rafforzate. Di terrorismo si è parlato questa mattina a Strasburgo, dove è in corso la riunione plenaria del Parlamento europeo e dove è intervenuto il Presidente della Repubblica, Sergio Mattarella. Ci colleghiamo in diretta con il nostro inviato a Strasburgo, Sergio Nava. Sergio, buongiorno. Buongiorno da Strasburgo. Non possiamo fermarci quando il mondo intero è in movimento. Con questa citazione di uno dei padri dell'Europa, Jean Monnet, il Presidente della Repubblica Mattarella ha concluso il suo primo intervento alla plenaria appunto del Parlamento europeo. Un discorso di 20 minuti, quello di Mattarella, incentrato su due assi: lotta al terrorismo e gestione dell'immigrazione. L'Europa, come gli Stati Uniti, è un argine contro l'oscurantismo, per questo ci attaccano, ha detto Mattarella, che ha chiesto maggiore unità e integrazione comunitaria contro il terrore. Sentiamo un passaggio del suo discorso. La battaglia che ci vede impegnati, non su tempi brevi, esige unità, unità e determinazione per battere insieme ogni violenza e per garantire piena sicurezza ai nostri concittadini, preservando la difesa irrinunziabile della libertà e dei diritti. Mattarella ha chiesto contro l'ISIS una risposta pari a quella fornita contro la minaccia nazista nella Seconda Guerra Mondiale, risposta che gli stessi cittadini europei chiedono. E in mattinata a fare il punto sul tema lotta al terrorismo era stato il presidente della Commissione Juncker. Sentiamo. Je considère que les services secrets Juncker ha scherzato la ancora poca cooperazione tra servizi di intelligence comunitari, devono collaborare di più, ha poi ammesso che Schengen è in coma ma va rianimato e ha spinto sulla messa in opera del registro dei dati dei passeggeri aerei. Chiudo tornando ancora all'intervento di Mattarella, che ha parlato pure di immigrazione, chiedendo esplicitamente l'aggiornamento delle regole di Dublino, che fotografa, dice Mattarella, un passato che non c'è più. Ora servono nuove regole improntate a principi di umanità e sicurezza, solidarietà e responsabilità. La scelta è tra un'Europa che affronta i fenomeni cercando di governarli e un'Europa che li subisce, ha detto il Presidente della Repubblica. Da Strasburgo è tutto. E grazie a Sergio Nava, inviato a Strasburgo. Ad aggiungersi ai fronti di tensione di queste ore c'è la decisione annunciata, a dire il vero, della Russia e tagliare le forniture di gas all'Ucraina. Due anni dopo la rivolta di Maidan, la Russia torna a tagliare l'erogazione del gas all'Ucraina. Ancora una volta l'inverno segna la stretta dei rapporti tra due governi che, seppure hanno sospeso la linea dell'escalation nel Donbass, non hanno ancora aperto un dialogo diretto per andare oltre la crisi. Dopo i moniti dei giorni scorsi, Gazprom ha interrotto le forniture di gas a Kiev finché non arriveranno nuovi prepagamenti, ha detto la D del colosso energetico Alexei Miller, ricordando che il blocco in Ucraina potrebbe rappresentare un problema per le forniture del gas all'Europa. Una minaccia che ha spinto da tempo ai ripari gli occidentali, favorendo il moltiplicarsi delle iniziative da parte della Polonia e dei paesi baltici che puntano a rendersi autonomi sul fronte dell'approvvigionamento. Dicembre sarà comunque un mese delicato per le scelte europee. Non solo i 28 dovranno decidere quale posizione assumere nei confronti della Russia in materia di sanzioni, decise dopo l'annessione della Crimea e per il ruolo russo nel Donbass e ora in scadenza, ma entro la prima metà di dicembre dovrà ufficializzare la posizione di Bruxelles sul futuro dell'accordo di libero scambio e sul sistema visa free che a Kiev tutti attendono e che Petro Poroshenko considera essenziale per far uscire il suo paese dalla crisi economica e che però può tornare a gettare benzina sul fuoco dei già tesi rapporti con Mosca. Gigi Donelli, Radio 24, Sole 24 Ore. Ed è di pochi istanti fa la notizia che l'Ucraina ha vietato il suo spazio aereo a tutte le compagnie russe senza eccezioni per evitare provocazioni. Questa è la decisione del governo. Kiev aveva già bandito i voli diretti tra i due paesi a fine ottobre. Mosca aveva risposto in modo simmetrico, ma fino ad oggi gli aerei civili russi potevano sorvolare l'Ucraina in transito, dunque evidentemente non la potranno sorvolare. Cambiamo argomento e passiamo alla cronaca. Sembra che prevalga l'ipotesi della legittima difesa per l'orafo che ha sparato ad un ladro e l'ha ucciso. Dopo le prime verifiche, il procuratore traccia la chiave di lettura dell'ultima storia di un ladro ucciso. Il padrone di casa, anticipa Alberto Nobili, ha agito nell'ambito della legittima difesa. I primi riscontri dopo l'interrogatorio di Rodolfo Corazzo, il commerciante di gioielli che ha sparato ai malviventi entrati nella sua villa, confermerebbero infatti la sua versione. L'albanese ucciso, due evasioni e già una condanna all'ergastolo, minacciava la figlia del proprietario che dopo un colpo in aria l'ha ammazzato. L'esame soprattutto delle telecamere farà decidere se ci siano o meno tutti gli estremi per la legittima difesa o se invece ci siano motivi che potrebbero portare ad accuse che vanno dall'eccesso di legittima difesa fino all'omicidio colposo o volontario contestato poche settimane fa ad un altro proprietario di casa di Vaprio Dadda. Dal tabaccaio di Piazzale Baracca a Milano fino al gioielliere Maiocchi o al più recente caso del benzinaio veneto sono molte le storie di sparatorie dopo aggressioni diventate altrettanti processi e ancora più polemiche, perché anche dopo le modifiche del 2006 ci devono comunque essere almeno tre fattori perché tutto sia considerato regolare. Il pericolo deve essere attuale, la difesa necessaria e proporzionata, elementi dalla complessa interpretazione che già portarono ad esempio nel caso del tabaccaio di Piazzale Baracca da una richiesta di condanna a 9 anni per omicidio volontario fino all'assoluzione per legittima difesa appunto. Raffaella Calandra, Radio 24, Il Sole 24 Ore. temi questi, così come quelli che riguardano la politica internazionale, i contrasti tra la Turchia e Mosca, sui quali torneremo tra un attimo. Intanto andiamo sull'economia, ai dati non buoni sulla produzione industriale. Industria italiana penalizzata a settembre dal mercato estero. L'Istat rileva infatti un calo dello 0,1% dei fatturati e del 2% degli ordinativi rispetto ad agosto, e per entrambi gli indici una flessione dello 0,8% rispetto a settembre 2014. Nella media degli ultimi tre mesi il fatturato diminuisce dell'1,6% rispetto al trimestre precedente. Pochi i settori con trend positivi, tra cui spicca ancora una volta l'auto, protagonista di una crescita del 35,7%. Oltre ai mezzi di trasporto, solo gomma, plastica, apparati elettrici e alimentare presentano fatturati tendenziali positivi. Gli effetti della frenata internazionale sulla nostra economia sono evidenti, in misura maggiore dal lato degli ordini, con la divaricazione tra domanda interna ed export, con la prima a manifestare deboli segnali di ripresa, più 0,4%, mentre per le commesse oltre confine la frenata è del 2,5%. In calo poi le vendite al dettaglio dello 0,1% rispetto ad agosto, mentre c'è un aumento dell'1,5% rispetto al 2014. Nell'anno cresce solo la grande distribuzione, più 3,1%. Vincenzo Miglietta, Radio 24, Il Sole 24 Ore, Roma. Una notizia appena arrivata che riguarda proprio l'economia. L'euro è arrivato ai minimi da 7 mesi contro il dollaro, dopo che la Banca Centrale Europea ha avvertito su un aumento dei rischi esterni alla stabilità finanziaria dell'eurozona. La moneta unica viene scambiata sui mercati a 1,058 dollari. Noi adesso ci fermiamo, andiamo a sentire che cosa succede sulle strade. Ci ritroviamo tra un attimo. Parleremo della visita del Papa che inizia oggi in Africa, anche qua con qualche rischio per la sicurezza. Torneremo sulla vicenda del jet russo abbattuto dalla Turchia e poi appunto sul tema della legittima difesa tra poco. Nuova Audi A4. Scopritela negli showroom Audi e su audi.it. Vi presenta. Effetto giorno. Effetto giorno, le notizie in 60 minuti, il punto a metà giornata di Radio 24 su quello che succede in Italia e nel mondo. I nostri titoli: l'abbattimento del jet russo per Mosca è una provocazione premeditata, ma non vogliamo andare alla guerra con la Turchia, dice Lavrov. Intanto la stessa Russia blocca le forniture dei gas all'Ucraina e dice nessun pagamento. Kiev risponde vietando lo spazio aereo alle compagnie russe. Domenica a Bruxelles è stata sventata un'ondata di attentati, dicono le autorità belghe. Si cercano 10 persone, sarebbero pesantemente armate, avrebbero esplosivi. Scende il fatturato dell'industria in settembre dello 0,1% e giù anche gli ordini del 2%, ancora bene il settore auto, come avete sentito pochi istanti fa. Prima di tornare alle vicende del jet russo abbattuto dai turchi, la visita del Papa in Africa, che inizia oggi, tra imponenti misure di sicurezza, l'avviso dei servizi francesi che hanno parlato di rischi concreti. Sentiamo. Di fronte a uno scenario internazionale segnato dalle guerre e dal terrorismo, nonostante l'allarme per la sicurezza, Francesco è volato in Africa per portare un messaggio di pace e riconciliazione. Nel pomeriggio l'arrivo in Kenya, a Nairobi, poi sarà la volta dell'Uganda e infine della Repubblica Centrafricana, la tappa più a rischio. Nell'ex colonia francese, scossa dal conflitto anche tra cristiani e musulmani, il Papa anticiperà il giubileo aprendo la porta santa della cattedrale di Bangui. Padre Antonio Spadaro, direttore della Civiltà Cattolica, è in viaggio con il pontefice. Il Papa vuol toccare con mano questa frontiera così calda e così insanguinata, purtroppo, e quindi vuole essere presente in Kenya, in Uganda, ma anche in Repubblica Centrafricana, dove è in atto tuttora una guerra civile. È un viaggio quindi non solo simbolico ma assolutamente reale, difficile, complesso, ma certamente dai grandi risultati. Katia Caramelli, Radio 24, Il Sole 24 Ore. Carlo Frappi è ricercatore associato al Dipartimento di Studi sull'Asia e l'Africa Mediterranea della Ca' Foscari di Venezia, l'Università Ca' Foscari di Venezia, ricercatore dell'ISPI. Lo saluto, buongiorno e benvenuto. Buongiorno, grazie. È stato un atto premeditato quello turco di abbattere il jet russo? Ma questo si dovrà vedere. Chiaramente dal mio punto di vista è stato un atto deliberato, un atto che risponde a continue violazioni dello spazio aereo che si sono ripetute sin dall'inizio della campagna militare in Siria, quindi oltre un mese fa, e che erano già state ad inizio ottobre condannate dalla NATO. Quindi di fatto una risposta a questo, o ci sono altre motivazioni per le quali la Turchia ha deciso di fatto di abbattere questo jet russo, considerato che l'ordine sarebbe arrivato direttamente dal premier turco? Ma al di là della contingenza c'è evidentemente una crisi più profonda. Turchia e Russia erano riuscite nel recente passato a compartimentare le varie direttrici della loro relazione bilaterale, cioè a perseguire una cooperazione tattica, se vogliamo strumentale, negli ambiti di comune interesse, penso all'energia piuttosto che alla regione del Caucaso meridionale, isolando al contempo quei piani invece sui quali c'erano evidenti divergenze strategiche. Uno di questi, forse il principale oggi, è appunto la Siria, rispetto al cui futuro evidentemente Mosca ed Ankara hanno idee molto differenti ed anzi direi anche inconciliabili. Per la Turchia è evidente che il futuro del paese non preveda la presenza di Assad, per la Russia al contrario Assad è un partner privilegiato e l'unica garanzia di stabilità del teatro siriano. Si è parlato molto dei ribelli turcomanni, insomma sarebbero coinvolti in tutto ciò, sarebbero stati appunto protagonisti dei fatti, avrebbero soprattutto avuto anche, per così dire, sarebbero stati un elemento fondamentale, no, all'interno della decisione turca di colpire la Russia. È effettivamente così? E chi sono costoro? Ma i turcomanni sono una minoranza stanziata in Siria come in Iraq, tradizionalmente utilizzata come strumento di politica regionale dalla Turchia. Se vogliamo, una sorta di quinta colonna utile per Ankara a ritagliarsi margini di influenza e, se vogliamo, anche di ingerenza negli affari dei vicini, quindi in Siria così come in Iraq. E questo in una regione dove evidentemente la tendenza a utilizzare le minoranze, siano etniche o confessionali, come quinte colonne, è una pratica piuttosto diffusa, anche evidentemente a scapito della stessa Turchia. La ringrazio, grazie a Carlo Frappi, ricercatore associato al Dipartimento di Studi sull'Asia e l'Africa Mediterranea della Ca' Foscari di Venezia e ricercatore dell'ISPI, per averci aiutato a capire qualcosa di più di quello che sta succedendo. E saluto l'avvocato Michele Monti, buongiorno. Buongiorno a lei e a tutti gli ascoltatori. È un avvocato che lavora a Milano e l'abbiamo chiamato, non parleremo di questo caso ovviamente, ma l'abbiamo chiamato perché in passato difese il gioielliere Maiocchi, lo ricorderete la vicenda, un gioielliere che nel 2004 sparò e uccise ad un ladro, che un ladro del originario del Montenegro, che aveva di fatto rubato nel suo negozio, e quindi di queste cose, essendosene occupato, ne capisce, e la chiamiamo per parlare della vicenda di quest'uomo, di quest'orafo che ha sparato e ucciso un rapinatore che tentava di introdursi sostanzialmente nella sua casa con un vero e proprio tentativo di sequestro. Anche questo fatto è avvenuto nel milanese, e appunto quest'uomo ha sparato e ha ucciso questa persona di origine albanese, tra l'altro un ergastolano, evaso due volte con un precedente per omicidio. Sembrerebbe configurarsi la legittima difesa, così avrebbe detto il magistrato che sta indagando sulla cosa. La domanda che le vogliamo fare, avvocato, è molto semplice e molto difficile, nel senso che di fronte a questi casi ci troviamo a moltissime soluzioni diverse e anche a moltissimi comportamenti di magistrati diversi che a volte non riusciamo a cogliere. A volte viene contestato l'omicidio volontario, a volte no, a volte viene riconosciuta la legittima difesa subito. Ci aiuta a far chiarezza? Diciamo che ogni vicenda fa un po' storia a sé. Io credo che si debba, per quanto possibile, cercare di analizzare serenamente i fatti, cosa che per quanto riguarda l'opinione pubblica e anche per i mass media è complicato. Per diverse ragioni. In realtà ci sono situazioni che, perché possano essere comprese, perché diciamo che si dovrebbe procedere in questo modo, fatti, prove, leggi, così dovrebbero essere fatti i procedimenti e poi i processi, ci vuole uno sviluppo passo passo che non è sempre immediato. Servono analisi, servono indagini balistiche, servono tutta una serie di accertamenti che magari non coincidono tanto né con quello che è l'opinione della gente, che già subito si fa un'idea tenendo conto che sente la notizia che qualcuno è penetrato in una proprietà privata, oppure dei giornali o della stampa in genere, che naturalmente deve cercare il più possibile di dare una vicenda in qualche modo già definita, insomma. Avvocato, ci dà l'idea precisa di qual è il discrimine tra le due cose? Che cosa dice la legge? Allora, guardi, la legge, perché poi stiamo alla legittima difesa cosiddetta domiciliare, che credo sia quella più che interessa di più, anche perché questi fatti tendenzialmente succedono nelle private dimore, nei domicili, anche se questa legge poi riguarda anche studi privati, interno di negozi, eccetera, eccetera. C'è stata una modifica nel 2006 che ha riguardato il concetto di proporzionalità di questa reazione, però la questione è sempre una, cioè ci deve essere l'attualità di un pericolo e questo pericolo deve essere contrastato nei casi che succedono, diciamo, con l'uso delle armi, soltanto nel caso in cui la reazione sia inevitabile, non si possa agire altrimenti, e soltanto nel caso in cui siano a rischio i beni della vita propria o altrui, che siamo i familiari conviventi, bambini, eccetera, eccetera. Per cui, anche se c'è stata, mi devo scusare, ma sono influenzato e ho una voce particolarmente sgradevole. Ma la questione è che c'è sempre un'interpretazione costituzionalmente orientata, per cui non è che è sufficiente perché ci sia la legittima difesa che il ladro, il rapinatore, il malvivente si sia introdotto nella privata dimora e allora c'è una difesa ampia a tutto campo, per cui la difesa è sempre legittima. Bisogna comunque dare una valutazione di cosa è per questo torniamo al fatto, certo, di che cosa è accaduto all'interno. E che non sempre è facile ricostruire. Allora io la ringrazio e la lascio alle sue aspirine. Grazie all'avvocato Michele Monti per essere stato con noi e averci aiutato a chiarire qualcosa. Oggi è la giornata mondiale contro la violenza sulle donne e noi abbiamo deciso in questa giornata di raccontarvi quei centri nei quali vanno gli uomini che maltrattano le donne per cercare di curarsi da quella che in qualche modo è proprio una sindrome psicologica. Sentiamo. Io in 6 anni di attività ho visto uomini che andavano dai 18 ai 70 anni, ho visto persone molto colte così come persone con un livello culturale molto basso, ho visto operai, imprenditori, medici, avvocati, esponenti delle forze dell'ordine. Non esiste un prototipo dunque dell'uomo violento, ci racconta così il dottor Mario De Maglie, però esiste la violenza ed esiste anche un percorso per smettere d'essere violenti. La conferma arriva da Monica Dotti, che coordina nel centro Liberiamoci dalla violenza di Modena, il primo centro pubblico nato in Italia per lavorare sugli uomini violenti. L'idea di venire al centro LDV è per cercare di essere un uomo diverso, di essere un uomo migliore, di essere un padre diverso e che c'è la possibilità di cambiare, che tutte le persone hanno la possibilità di cambiare. In Italia, secondo i dati Istat di giugno 2015, 6.788.000 donne hanno subito nel corso della propria vita una violenza fisica o sessuale. Si tratta del 31,5% delle donne tra i 16 e i 70 anni, dunque una su tre. Un dato che non si discosta molto da quello fornito dall'ONU a livello mondiale, in cui si parla di un 35% di donne abusate o picchiate. In Italia da qualche anno sono attivi centri antiviolenza per le donne e contemporaneamente sono nati, in alcune città, anche centri a sostegno del recupero degli uomini violenti. Mario De Maglie coordina il Centro Uomini Maltrattanti di Firenze. In 6 anni, dai 20 casi in iniziali, ora hanno in carico 400 uomini. La cosa importante è sottolineare che la stragrande maggioranza di loro, all'incirca credo un 80%, arriva al centro volontariamente. Che significa volontariamente? C'è stato ad esempio un episodio di violenza più forte del solito. Come funziona la presa in carico? Cos'è che fate con loro? Abbiamo una prima fase di valutazione individuale, quindi con colloqui individuali tenuti da altri uomini. Noi abbiamo visto che gli uomini maggiormente motivati, la tendenza è quella di interrompere subito il maltrattamento fisico. Questo nel giro di brevissimo tempo, già dopo uno o due colloqui. Le priorità del centro è anche far capire che la violenza non è una malattia ma è una scelta. Cristina Carpinelli, Radio 24, Il Sole 24 Ore. Ci fermiamo, andiamo a sentire che cosa succede sui mercati e poi nella seconda parte della trasmissione parleremo dell'entrata in vigore oggi di quella direttiva europea che impone i turni di riposo anche negli ospedali e che potrebbe creare qualche problema operativo agli ospedali stessi. A tra poco. Effetto giorno. L'abbattimento del jet russo per Mosca è una provocazione premeditata, ma non vogliamo la guerra, dice Lavrov. E la Russia blocca le forniture di gas all'Ucraina, nessun pagamento. Kiev vieta lo spazio aereo alle compagnie russe. Domenica a Bruxelles è stata sventata un'ondata di attentati, dicono le autorità belghe. Notizia di pochi istanti fa, traffico ferroviario bloccato alla stazione della circumvesuviana di Torre Annunziata per un pacco sospetto, interrotti i collegamenti con Napoli, Sorrento e Poggio Marino. Scende il fatturato dell'industria in settembre dello 0,1%, giù anche gli ordini del 2%. La borsa. Investi in fondi? Solo con Online Sim scegli tra oltre 4.000 fondi a zero commissione d'ingresso. Vi presenta. State ascoltando un programma offerto da Creo Kitchens, finalmente la cucina di qualità ora alla portata di tutti. Gruppo Lube. Effetto giorno. Eccoci di nuovo, effetto giorno, le notizie in 60 minuti, il punto a metà giornata di quello che succede in Italia e nel mondo. E in Italia succede oggi che entra in vigore nella sostanza quella direttiva europea che impone anche ai nostri ospedali massimo 48 ore di lavoro settimanale, reperibilità compresa, turni mai superiori alle 13 ore e soprattutto 11 ore di riposo di fila da garantire a tutti. I medici hanno sollevato questo problema dicendo: in questo modo noi non riusciamo a coprire i turni, ne vogliamo parlare con Francesco Ripadimeana, che è presidente della FIASO, che è la Federazione delle Aziende Sanitarie Ospedaliere Italiane, ed è anche direttore generale dell'Istituto Ortopedico Rizzoli di Bologna. Buongiorno e benvenuto, Ripadimeana. Grazie. Allora, qual è la situazione? Si riesce a gestire questa cosa oppure no? Le notizie che noi abbiamo sembrerebbe che la situazione sia abbastanza negativa, perché questa fase complicata, questi anni di blocco del turnover in tutte le regioni in piano rientro, le difficoltà, conosciamo un bilancio finanziario in discesa negli anni, ci consegnano un momento difficile, e avremmo noi immaginato che questa discussione, che come è già avvenuto per il comparto negli anni passati, dovesse essere sul tavolo del contratto di lavoro, che si apre la contrattazione, si apre all'ARA nei prossimi mesi. Di botto trovarsi in una situazione in cui si creano delle oggettive rischi di illegalità, chiaramente per eventualmente anche per piccoli periodi, per piccoli, e non avere più come perché la sostanza, mi spieghi, il punto è questo, Ripadimeana, mi sembra di capire da quel che lei mi dice, è che voi comunque dovete coprire, per così dire, i turni, e quindi inevitabilmente ci saranno una serie di strutture che saranno costrette a pur per brevi periodi, come si diceva, all'illegalità, intendendo con questo non rispettare la direttiva europea, oppure chiudere, perché bisogna pure fare delle scelte, cioè non è detto che e per forza noi dobbiamo scegliere tra l'obbligo del servizio e il rischio dell'illegalità. L'obbligo del servizio ce lo porremo, probabilmente ci autodenunceremo su questo come responsabili datori di lavoro e responsabili della tutela della salute, perché questa ambascia, questa contraddizione è patente, non è che ci si può nascondere che è meglio tenere l'illegalità rispetto al servizio che deve essere reso per forza. Quindi a dipendere dalle situazioni più o meno difficili, ci sono aziende che hanno ridotto in questi anni il 15% del personale, ecco, in questi anni duri dei 5-6 anni di piani di rientro. Di dire che noi siamo in condizione dovunque di garantire i servizi e allo stesso tempo di rispettare questa norma al 100%, non avendo più quello che era un tavolo di compensazione importante, che era la discussione nei tavoli sindacali. La legge prevedeva che ci fossero una discussione delle eventuali deroghe discusse nei tavoli aziendali di negoziazione. E adesso questo non è più consentito, in sostanza. E da quello che intendo, addirittura viene spazzato via anche per il comparto, non solo per i medici. Mi dice una cosa: quanta gente manca all'appello? Perché le cifre che sono circolate in queste ore parlano di almeno 3.000 medici e 20.000 infermieri, è così? Io credo che queste sono le cifre che danno i medici, danno i sindacati medici. Io credo che sia meno, e che in ogni modo, per andare a un livello di fattibilità in una fase in cui si dicono di non assumere da tanti anni, parlare che improvvisamente si obbligano a assumere 3.000-5.000 persone con una sorta di intervento orizzontale che non è mirato a singoli problemi che ma sarebbe solo per questo, io credo che sia forse anche un po' sovradimensionato. Ma in ogni caso il tema del blocco del turnover e del fatto che mancano 20.000 infermieri anche, però ecco, non possiamo dire che mancano solo 3-5.000 medici. Sì. Allora, questa cosa il Paese lo vuole fare, l'Italia deve assumersi la responsabilità anche di finanziarlo, un'operazione così ampia, certo. di trovare una soluzione, mi scusi, come il governo sta facendo, di dire assumete le risorse, cioè risorse uguali, tanto poi i risparmi li vedrete se li abbiamo fatti, non so, sulla medicina difensiva, mi sembra un atteggiamento un po' irresponsabile, perché si lascia semplicemente il cerino in mano a un'autorità decentrata, a un datore di lavoro decentrato, che potrebbe scegliere anche di dover chiudere i servizi in alcune situazioni. La ringrazio, grazie per i chiarimenti a Francesco Ripadimeana, presidente della FIASO, la Federazione Italiana Aziende Sanitarie e Ospedaliere. Prima di andare a sentire cosa succede sulle strade, vi dico che prenderà il via domani Lezioni di Futuro, 15 quaderni dedicati a famiglie, imprese e pubblica amministrazione, in edicola con Il Sole 24 Ore ogni giovedì, spiega le diverse innovazioni che stanno rivoluzionando la vita di tutti i giorni e il loro impatto sull'economia, la società e la cultura. Una collana curata da Nova 24, sentiamo come la racconta il responsabile Luca De Biase. Quello che abbiamo visto negli ultimi 20 anni è stata una grande trasformazione basata su internet, adesso però quello che abbiamo di fronte forse è ancora più radicale, i robot, il big data, l'intelligenza artificiale, internet delle cose, poi nuovi materiali intelligenti, insomma a tutte queste grandi trasformazioni abbiamo bisogno di comprenderle e abbiamo cercato chi ci può dare queste lezioni di futuro, abbiamo raccolti in questi 15 quaderni, cominciano giovedì 26 e abbiamo una serie di domande da porre, come cambierà la nostra vita, come cambia l'economia, che tipo di riflessi sulla privacy, sui diritti umani, insomma c'è davvero da comprendere molte cose. Il traffico, Mario Platero, ci ritroviamo alla fine per i saluti.